Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Pane, burro e rock and roll ha deciso. Uno dei sette vizi capitali è decisamente più rock degli altri. È l'invidia, un'esternazione talmente compromettente da risultare fondamentale. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Confessaci la tua invidia. Garantiamo l'anonimato. Ho provato per anni a suonare la batteria, che dico per anni? Per decenni. Non ho mai raggiunto nessun risultato utile perché io diventassi un batterista vero, e tutte le volte che guardo questi giovani musicisti che hanno 15 anni o 18 e ottengono risultati e sono in televisione e cantano davanti a un pubblico folto con le ragazzine che fanno loro i cori, io dico: ma perché? Probabilmente meritavo di più. Io invidio. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Iscriviti anche tu, invia un SMS al 335-100-7777 col testo "L'invidia è rock". Lamentarsi è deprimente, invidiare è rock. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Chiedevamo quest'oggi chi è Lawrence Hammond. Ipotizzava la soluzione A, forse l'inventore dell'organo Hammond? Ma sì, ma dai, non era così difficile. Il celeberrimo organo Hammond. Il signor Hammond, nonostante fosse in origine destinato alle chiese, in alternativa ai più costosi organi a canne, trovò largo utilizzo nel jazz, nel blues, nel gospel e ovviamente anche nella musica rock. È stato anche ampiamente utilizzato nelle cappelle militari statunitensi durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'organo Hammond inventato da Lawrence Hammond. Bravi, se avete azzeccato. Esatto. Dunque cassate decisamente le altre due ipotesi. Sì. Il fondatore della celebre band tedesca, le Hammond Inferno, non era vero. Assolutamente inventato. E nemmeno che è il colonnello Elvis Presley, che aveva un altro nome, non so se possiamo citarlo. Vuole dirlo, lo citi. Ma lo terrei per un altro test. Un prossimo test. Non vogliamo dirlo chi è? No. Ma lei lo sa? Io lo so. Naturalmente. Lo sa? Beh, chi non conosce il colonnello, non me lo ricordo. Neanch'io. In this dirty old part of the city where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, if you did before your time is due, I know. One thing I know is true, yeah, you'll be dead before your time is due. La promessa è quella di portarvi fino alle 9 del mattino e ci siamo quasi. Ultimo blocco di Pane, Burro e Rock and Roll nella puntata 172. Buongiorno anche a voi che vi sintonizzate così proprio sulla rush finale di questo mercoledì 30 di gennaio. Vedo che i primi sparuti SMS col testo L'invidia e rock stanno arrivando, la nuova rubrica di Pane, Burro e Rock and Roll nella quale vi punzecchiamo l'invidia che c'è in voi, non abbiate paura, confessatecela, richiedete anche voi la vostra medaglia e gridate al mondo intero, probabilmente meritavo di più, questa la nostra nuova follia. Mentre per chi si fosse perso la parte precedente di questa trasmissione, abbiamo ascoltato Emi da Firenze, guida il pullman, però me lo guida sulla chiappa sinistra quest'oggi, perché sulla destra ha avuto qualche colpo causato da un weekend di snowboard. Allora, caro Emi, mi scrive Frankie 64, metti del grasso di maiale sulla parte, ovviamente la sera quando non lavori, se no potrebbe essere imbarazzante. Quindi grasso di maiale, poi io dove uno possa andare a prendere il grasso di maiale non lo so, veditela tu. Salutiamo Gianluca da Firenze e Marco che ha pubblicato un sito dove ha realizzato un mini corso da livello 0 a 1 per gli autodidatti dello snowboard. Mi tengo il contatto, Marco, prima o poi ne parliamo. E soprattutto di nuovo solidarietà anche quest'oggi al padre disperato con figlia piccola che alle 8:30 spegne Rock FM perché iniziano gli antenati su Italia 1. Caro genitore, io, se sei ancora all'ascolto, rinnovo la solidarietà di Pane, Burro e Rock and Roll nei tuoi confronti. Vedremo di inventarci qualcosa, tipo fare gli antenati anche su Rock FM. Dove avete lasciato la testa, ci chiedevamo mesi fa, e se lo chiedono anche i Pixies nella strepitosa Where is my mind? centro. Di cosa? Di pane, burro e rock and roll. Sì. È variabile, sì, diciamolo, è variabile. È variabile. È variabile. Però un punto fisso, un punto fermo è il nostro rapporto fondamentale con i piccoli ascoltatori. Uno in particolare, metallaro, di Milano, con accento marchigiano, non abbiamo ancora ben capito perché. Francè! Un vero teppistello! Ecco tornato il Francè che conosciamo. Come mi va, Francè? Mi trascina. Dove? Tutto bene, sono entrato nel mondo della televisione, metal! Come nel mondo della televisione? Sì, sì. Allora, a scuola ieri, no? Sì. È arrivato una maestra e ha detto: ragazzi, domani partecipiamo allo zecchino d'oro. Allo zecchino d'oro? Allo zecchino d'oro. Allora sono andato allo zecchino d'oro, sì, no? E io pensavo che mi pagavano uno zecchino d'oro, però invece no. No, non c'entra la niente. La solita non fregatura. Tra l'altro sappiamo la tua passione per la musica, non so quanto il metal fosse accettato lo zecchino d'oro. Motley Crue! Calma. Calmati, Francia, che cosa è successo allo zecchino d'oro? È successo che stavamo a fare prove a cantare tutti insieme a classe mia, no? Ma dai, a che cosa ti hanno fatto cantare? 44 gatti? Allora sì, tutti cantavano 44 anni. Allora io cantavo Ma questi sono Francesco, questi sono i Metallica, non c'entrano niente con 44 gatti. So, appunto, però secondo me stava bene, no? E ho capito che secondo te stavano bene, allora, allora mi hanno detto: ma guarda, questa è un'altra melodia, no? E gli ho detto: io avevo cantato insieme con altri. Allora cantavo il testo, però calma, tu stai cantando 44 gatti con il testo di Enter Sandman. E te l'hanno accettata? Mi hanno cacciato. Beh, hanno fatto anche un po' bene, permettimi di dirlo. Ci sono delle regole. Dai cuccette. Hai come? Volevano dare cuccette. Ah, loro a te volevano dare. Devi capire, zecchino d'oro gli hanno cuccette. Certo, sì, va bene. E aspetta, c'è sull'altro cellulare, mi sta chiamando la gente mia, che mi stanno provando un altro programma. No, nel senso, tu hai due cellulari e un agente? Sì, un agente, ciao. No, ma se ne va. Ma questo se ne. Aspetta. Ci attacca in faccia, ma così. Come si chiama il tuo agente? No, ho trovato lavoro in televisione. Ma quali progetti hai, Francesco? È andato. You. meravigliosa While My Guitar Gently Weeps di George Harrison, interpretata dalla Jeff Healey Band. Un'ottima versione di While My Guitar Gently Weeps, molto simile all'originale, ma con quel friccicorino in più che ce la fa amare ancora di più. 8 e 50 minuti primi. Che si sappia là fuori, me ne lavo le mani, è tutta colpa sua. Si chiama Mario, arriva dalla Liguria che conta e costruisce un carro di carnevale che è diventato il nostro. Ciao Mario. Ciao, buongiorno. Scusa se faccio lo scarichino, era solo no, per... No. In realtà siamo nelle stesse scarpe, via. Sì. Per chi non dovesse sapere chi è Mario, velocemente manda un SMS. Secondo voi fare un carro di carnevale a rock? Sì. Organizziamo un raduno surrealista di pane, burro e rock and roll domenica questa, andiamo al suo carro. C'è qualche fotografia su myspace.com pane burro FM, ma ne hai altre che... Perché non ce le vuoi far vedere le altre? È una sorpresa. È una sorpresa. Maledetta. No, dai, vabbè, dai, vedo di mandarvi qualche foto anche a voi, dai. Perché hai detto che sei andato avanti. Mi hai sì, sono andato avanti, l'abbiamo un po' definito da com'era, perché era proprio appena costruito, diciamo, la bozza. Certo. Sì. E adesso, pian piano, sta prendendo forma. No, anche perché siamo già al secondo scatto, vorrei seguire anch'io la nascita del carro, no? Anche per quelli che poi abitano molto lontano e non verranno, era per far partecipare anche a loro in qualche modo. Ecco, vedremo. Sì, guarda, ti dico, abbiamo fatto il carro, abbiamo fatto la prigione nel vagone, dove ci metteremo, anzi sto cercando una foto di qualche indiano da poi stampare mettere dietro alle sbarre. Okay. E diciamo che stiamo facendo un po' di artiglieria di difesa. Allora fermo, perché questo è il grosso problema di oggi, l'artiglieria. I problemi sono due: uno veloce, l'abbiamo già detto qualche giorno fa, nessuno ci vuole aiutare, lo ridiciamo, avremmo bisogno il fischio della locomotiva, ma il fischio ad aria compressa. Aria compressa, sì, andrebbe benissimo, perché ci abbiamo compressore a bordo, quindi potrebbe andare. Potrebbe, ma tipo, non so, benissimo. Dico una stupidata, ma quelli delle navi non hanno robe simili, no? Trovarli. Tra l'altro lì a Genova ci sarà qualcuno che nel porto c'ha la sua barca, che tanto adesso inverno non la usa, ci presta il fischione. Ecco, lo sarebbe gradito. Ovviamente lì lo restituiamo, non è. Però che... attenzione, perché a Mario io l'ho capito. Ci diamo un dito, si piglia il braccio. Nel senso che, visto che adesso è un po' tranquillo, che la locomotiva è pronta, stamattina mi ha detto: guarda Ariele, tutto tranquillo, adesso penso al mortaio. In sì. Che senso, Mario, perdonami? Dunque, io ho fatto dei fucili che sparano coriandoli, caramelle per i più piccoli. Sì. E posso dire questo: la gittata varia dai 12 ai 21 metri. Questo per far capire che non si scherza un cazzo, no, proprio. No, no, okay. No, no. L'unica cosa, non degeneriamo a livello, cioè è un gioco, voglio sottolineare, è un gioco, ecco, per tutti. Bene, questo è una cosa importante. Penso non sparate altezza bambini. No, sparare altezza bambini, insomma, è un carnevale dove la festa è dei grandi ma anche dei piccini. Senti, invece questa storia del carro. Del cannone con le ruote? Allora, no, perché dille, cioè non è che me le dici in fuori onda e poi stai lì e stai zitto. No. Questo no, parla di un carro armato con le ruote. Vedete, no, voi se non mi devo preoccupare. Io. No, diciamo che i fucili ci sono con più o meno quella gittata che ho detto. È andata, sì. E adesso sono deciso se fare un mortaio, un vero e proprio mortaio, tipo che posi per terra, oppure fare un cannone con tanto di ruote. Eccolo, cioè vedete voi i problemi di Mario. Che tra l'altro c'ha anche un lavoro nella sua vita, no? Sì, è vero, sì. Che sta perdendo, tra l'altro, perché ormai... Sì, ieri era di nuovo luna. Ecco. Senti, Mario, ci risentiamo venerdì, proprio il giorno prima. Volentierissimo. Anzi, due giorni prima. Ok. Per sta cosa del cannone, non sentirti proprio in dovere, eh? Cioè, bastavano anche i fucili, te lo dico. No, ma visto che c'è Ian lì, c'è l'arci, com'era lì? Ho capito, sì. Va bene. Ciao Mario, buona nottata sul carro, eh? E mandaci le foto, ciao. Ok. Ciao a tutti. Ciao. Saluto Alessandro da Firenze, al quale ho appena attaccato il telefono in faccia. No, chiamava solo per dire: ragazzi, vengo anch'io domenica a Celle Ligure. Da Firenze? Sì, sì. Va bene, oh. La sapevo sta storia del cannone. Avrebbe riacceso gli animi dei radioascoltatori. E tutta è andata anche questa puntata 172. Gli appuntamenti del weekend: sabato sera Rapallo, Jamba Live, Rock FM All Stars Band, con me Max De Riu, Edo, Mox, Mr. Pinguino, ma non le patenti da vero rocker. Non chiedetemele sabato, perché non posso darvele. Volendole, honoris causa, le potete richiedere domenica pomeriggio alle 2:30 a Piani di Celle, a Celle Ligure. Quello è il ritrovo per la partenza del primo raduno surrealista di radioascoltatori e radioascoltatrici di Pane, Burro e Rock and Roll. Tra poco troverete la puntata su RadioRockFM.com o sul nostro spazio /PaneBurroFM. Pane, burro e rock and roll. E chi sarebbe il MySpace poi, no? La tua colazione roll. Speriamo di pubblicare anche nuove foto del carro. Pane, burro e rock and roll. Se Mario le molla però, Solidarietà continua ad Emi da Firenze, resisti. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. E com'è, come non è, arriviamo anche quest'oggi a mollare il microfono a Marco Garavelli. Buona giornata. Capita, buona giornata a te. Ma lo sapevi che pioveva oggi? Sì. Ma sta storia dei giorni della merla che dovrebbe far freddo e invece non sta facendo tanto freddo, come la vedi tu? La vedo che è da tempo che le cose stanno cambiando a livello meteorologico. Non ci sono più le mezze stagioni, esatto. Quella roba lì. Eccetera, eccetera. Frasi fatte. Buona giornata con Marco Garavelli fino al mezzodì. Ciao, ciao. Ma cos'hai, sei incazzato? Sì, di brutto, conigli bastardi. Ma perché ce l'hai con i conigli? Però aspetta, che bello, anch'io mi unisco al club. Bello incazzarsi con qualcuno, conigli bastardi, bu bu conigli bastardi. Ma perché ce l'abbiamo con i conigli? No, non con tutti i conigli, solo con il coniglio neozelandese. Ah sì? Oh, che figata, bastardi conigli neozelandesi, tornate a casa vostra. Ma perché ce l'abbiamo con i conigli neozelandesi? Perché solo loro hanno superato il test del talidomide. Bastardi, wow, che schifo! Conigli neozelandesi tutti a Pavia a scaldare le vecchie. Cos'è il talidomide? Un tranquillante per le donne incinta. No, anch'io la maglia anch'io. Conigli neozapatani a rogo. Neozelandesi, Rogna, no zapatani. E comunque solo chi passa il test del talidomide passava alle celle dei piani superiori. Il che vuol dire pasti raddoppiati, barbiere gratis e divisa con le borchie. No, anch'io voglio la divisa, anch'io voglio il barbiere e anch'io il pasto raddoppiato. Cazzo, Rogna, dobbiamo passare il test del tarricone. Talidomide! E poi non c'è speranza, Rogna. Ti ho già detto che solo i conigli neozelandesi salgono al piano di sopra. A meno che? A meno che? A meno che non chiediamo a Don Turturro stimatissimo di farci avere due cartellini falsi. Con nomi neozelandesi, magari. Frigo Zoolander e Rogna della terra del Ktur. Frigo Zoolander.